ninao, ninana. Domani ti porto al mare a raccogliere conchiglie, a fare castelli di sabbia, ora che cammini con le tue gambe. Adesso dormi bimbo, ci vuole tempo per sognare, ma tu hai già tutto dentro, scritto nel tuo cuore. Non ti preoccupare, sarò sempre al tuo fianco, questa notte dormo con te, aspetterò il nuovo giorno. Non aver paura, che l'uomo nero oggi è stanco, l'ho mandato a quel paese, dormi, io resto accanto. Nina, na, na, Nina, oh. Nina. Domani è tutto nostro, nostra sarà la luce, proprio come i tuoi occhi che trasmettono la pace. Adesso dormi bimbo, che è l'ora di incontrare i tuoi sogni, io li bacio e questa notte passerà veloce. Non ti preoccupare, sarò sempre al tuo fianco, questa notte dormo con te, aspetterò il nuovo giorno. Non aver paura, che l'uomo nero oggi è stanco, l'ho mandato a quel paese, dormi, io resto accanto. Nina, na, na, Nina, oh. Nina. Quando sarai grande, canta questa canzone ai tuoi figli, ai pronipoti, a chi darai amore. Ricordati che il mondo vorrà cancellarti amore, tu invece fatti forte e difendi tutto il tuo cuore. Non ti preoccupare, sarò sempre al tuo fianco, questa notte dormo con te, aspetterò il nuovo giorno. Non aver paura, che l'uomo nero oggi è stanco, l'ho mandato a quel paese, dormi, io resto accanto. Nina.